Inizia così, versandosi un bicchiere di vino, questo nuovo episodio di Tutto Tranquillo Pre-Rassegna. Ciao a tutti. Ciao a tutti, benvenuti. Tra l'altro, esatto, siamo nella cucina di Francesca. Visto che normalmente è la nostra consuetudine pre-live intervistare il musicista che si sarebbe esibito il giorno successivo. Il giorno successivo questa volta tocca a me e a Francesca. Siamo noi. Quindi il nostro egocentrismo ci ha portato a far sì che abbiamo deciso di auto-intervistarci e vedere un attimino che cosa venga fuori. Esatto, però siccome così auto-intervistarci in modo serio era forse troppo serioso, abbiamo deciso di farlo in attenzione culinaria. Esatto, sì, visto anche l'orario. Visto che oggi abbiamo avuto la fortuna di trovarci insieme per fare delle prove, per fare un lavoro insieme, abbiamo deciso noi facciamoci qualche cosa da mangiare, eccoci qua. E intanto ci facciamo l'intervista. Ciao, Francesca, ciao, benvenuta ancora. Benvenuta Giacomo. Ma grazie ancora. Sei pronto per domani? È veramente un'emozione poter essere qua con te. Anche per me. Suonare con te, che tra l'altro sarà una delle prime volte che ci capita. Vero, assolutamente tutto vero. No, beh, comunque, è l'ultimo episodio. È l'ultimo episodio della radio pre-rassegna. E sarà l'ultimo episodio della rassegna, per ora, ma non, nessuno si illuda, perché non sarà a breve la prossima edizione. Però quello che è stato fatto, e direi io molto contento di come è venuto. È stato lungo, faticoso. Molto bello. È stato anche mezzo per poter discutere tra me e te, certo. Perché ci ha portato a tirare fuori, come si dice tra giovani, cazzi e mazzi. Quelle sane liti di coppia. Sì. Esatto, esatto. Coppia artistica, sì. Però bello, è stato veramente un bel viaggio, impegnativo come stavamo dicendo prima, perché comunque ha riportato tutta la pasta. Ha riportato, no cos'è? Zenzero, la frutta più buona. Francesca, sappiamo che si nutre adesso di cose di zenzero della marca Ventura. Solo la frutta più buona, dice essere incredibile. Salgone uno buonissimo. Magari dopo la pasta. Adesso non me la sento molto più. Vabbè, questo episodio della radio sarà così, cioè. Molto domestico. Sì. Molto domestico. Ma perché non raccontarsi così in maniera molto un po' più. Io sono molto contenta, perché comunque abbiamo creato un bell'incastro anche di persone. Forse la cosa che a me personalmente è piaciuta di più di questa rassegna è stato i preconcetti e quello che si creava preconcetti. Quindi no, quella gente arrivava, poi certo sono partiti sempre un po' tardi, ma in orario che è un grande classico. Sì, perché grazie ai ragazzi di Tangerine siamo riusciti ad avere quei momenti di pre-chiacchiere, perché comunque hanno riempito con della bellissima musica, della bellissima selezione musicale, dei bellissimi momenti di chiacchiere fra di noi, sì. Ma chiacchiere fra di noi, ma anche chiacchiere con l'artista stesso, comunque. E no, soprattutto quello, sì, dicevo fra di noi, ma intendevo anche proprio con l'artista, perché sì, comunque eravamo lì ad aspettare che succedesse qualche cosa, che iniziasse il live. Quindi ti direi che sì, il mio momento preferito di questa rassegna è sempre stato quello. Il mio momento non preferito della rassegna era alzarmi dai cuscini alla fine del live. Perché facevo sempre un po' di fatica con le ginocchia a tirarmi in piedi, visto che abbiamo questa maledetta abitudine. Perché c'è stato, sa che ci piace fare queste cose un po' a terra. A terra, seduti, a piangere. Forse domani non sarà a terra, cioè no, sarà a terra per voi, noi no. No, noi a terra no, basta. Direi che abbiamo fatto il nostro per una volta, possiamo stare seduti ad una seggiola. Esatto. Vedremo di fare la cosa più lunga, tra l'altro pensavamo di fare un live di 4-5 ore, giusto perché volevamo temprare e vedere se le articolazioni del nostro pubblico era pronta a resistere. Ci sta ascoltando in questo momento, non credo a nessun tipo di parola che già non sta. Poteva essere divertente, però poteva essere simpatico. Sì. Cose lunghe le abbiamo fatte, sappiamo che non è il caso da rifare né da riproporre ad altra gente se non a chi vuole soffrire realmente. E comunque sì, quanti live siamo arrivati? È il quinto, giusto? Questo è il quinto. Il quinto, partendo da Vito. Tito Gatto. Ci sono stati i due ragazzi in Mulom, super. C'è stata Elia, c'è stata Silvia. E poi alla fine toccata a noi. Bello, sì, finalmente riusciamo a... Sono contenta. Ad arrivare alla fine. Incolumi. Incolumi, nessuno che si è arrabbiato, nessuno che si è detto di tutti i colori. È stata sicuramente una bella esperienza. Da musicisti e non da organizzatori di concerti. È stato molto bello. È stata sì una nuova esperienza. Cioè, un nuovo proprio... Proiettiamoci in una cosa che non siamo capaci di fare. Vediamo cosa succede. Però alla fine devo dire che beh, siamo stati in gamba. È venuta fuori una bellissima rassegna. Sì, tutto quanto, anche grazie ai ragazzi di Exange, che devo dire la verità, sono diventati per un periodo di tempo la nostra seconda casa per questi mesi. Ci hanno sopportato e supportato, soprattutto sopportato per le nostre paranoie, per le nostre... Spostiamo questo dall'altra parte. Ma bene se cambiamo tutto. Tanto, che cosa vuoi che sia? Edoardo, per favore, sposta... Della legna che tra l'altro abbiamo rischiato di far sì che Vito morisse dopo pochi secondi all'inizio, che con un colpo abile di caviglia stava tirando giù questo quintale e mezzo di ceppi di legna che gli aveva montato alle spalle. Ha voluto la montagna, Vito Gatto. Voluto la montagna e adesso ti montagnizzi, sì. Abbiamo rischiato anche il soffocamento con il Molam e con Silvia, con la macchina del fumo. Sì. Perché? Grazie Matte di Box per la macchina del fumo, grazie Box of Tangerine. Grazie Box of Tangerine, sì, proprio bravi, bravi, bravi. Hanno fatto una super cosa, sì. Senza di loro non saremmo riusciti a creare certe atmosfere. No, ma poi loro proprio bravi, si sbattono tantissimo in tutto quello che fanno. Hanno sì, è anche quello, devo dirti, bello. Che il bello forse della rassegna è stato anche riuscire a vedere che esistono realtà che hanno voglia di fare, che si muovono, che supportano, perché alla fine noi siamo andati a fare una serata da loro quando avevano la loro sede, era in Porta Venezia, sì. E gli abbiamo detto guarda, abbiamo questa rassegna, che avreste voglia di, e alla fine subito sì, ed è una cosa che oggigiorno pochi penso, o comunque pochi, magari ce ne sono tanti, ma non c'è una rete di comunicazione tale per venire fuori, non lo so. No, diciamo che spero sia un'altra tanto. Cosa che ha portato questa rassegna è anche una bella senso di famiglia, d'appartenenza e di farsi forza a vicenda. Vabbè, un po' tutti ci siamo sulla, come si dice, siamo tutti sulla stessa barca. Esatto. No, sì, è stato come dirti, molto rincuorante, perché alla fine ti ha detto ma non, dici che bello, cioè cose interessanti che si muovono, sì. E anche la risposta che abbiamo avuto dalla rassegna è stata molto piacevole e molto ricca, perché comunque sono scritte tante persone per eventualmente promuoversi, sì. Fare anche comunque pensando che abbiamo portato tutti i concerti molto particolari, quindi in realtà è stato anche inizialmente un rischio, però poi questo rischio si è trasformato in una grande fortuna sia per noi che poi chi per chi è venuto a sentire, probabilmente perché ha avuto l'opportunità di conoscere anche qualcosa di nuovo. Ma sì, qualche cosa che non è, sicuramente non è così diffuso. Ci sono momenti così a Milano, molto più magari mainstream, anche se ricercati, però mainstream, cose così sono poche, ci sono pochi locali che lo fanno, quei pochi che lo fanno, devo dire la verità, però lo fanno bene, perché anche C3 per esempio, perché tanto non c'è nessuna gelosia tra Exage e C3, quindi si può parlare di tutti, lavorano estremamente bene. Esatto. No, quindi... Quindi niente Giacomo, sei pronto per domani? Devo far finta come facevano tutti gli altri. Sì, sono carichissimo. È un momento. No, tutto pronto. No, sì, sono pronto. Alla fine una cosa che Non mi preoccupa suonare dal vivo con atmosferica, è proprio il suonare dal vivo con atmosferica, nel senso quello che facciamo. quello facciamo. No, beh, oggi abbiamo fatto la prima cosa da studio, però devo dire. Però l'abbiamo affrontata esattamente come quella, se qualsiasi live e suoniamo. Esatto, non c'è mai grande preparazione, che vabbè, non so quanto può essere vista bene o male questa cosa che diciamo, però è la realtà. Anche quella è fiducia, nella persona che si ha di fronte, quindi si sente, cioè, vado sereno, perché tanto comunque, beh, io lo faccio molto spesso, vado sereno, tanto dall'altra parte c'è Francesca che copre eventualmente le mie vaccate. Ti dici, tanto faccio, siamo in due. Tanto siamo in due, al massimo mi abbasso e faccio fare a lei. Perfetto. Però anche quello è una bella, come si può dire, un bel salvataggio, una... È l'aver fiducia, cioè se dire ok, ho la mia scialuppa di salvataggio, sì, sono sicuro che comunque come casco perfettamente benissimo. Sì, è bello perché cioè, ad oggi non c'è stato un live in cui ci siamo trovati in difficoltà o ci siamo detti ah vedi, forse dobbiamo trovare di più. Il bello di atmosferica è proprio che nasce dalla non prova, da un grandissimo ascolto. Torniamo proprio al discorso di base per cui è nata l'atmosferica. Alla fine. Tutto atmosferica, tutto la radio, la rassegna. Tutto basato sull'ascolto, l'ascolto che deve essere la cosa centrale. Se anche noi due siamo i primi che non ci ascoltiamo, mi sa che non siamo particolarmente coerenti con quello che vorremmo fare. Quindi ben venga, secondo me, il fatto che sia così, estemporanea. Io una cosa che poi ho apprezzato tantissimo, che temevo tantissimo, soprattutto con i modulari, era l'improvvisazione. Arrivare e dover improvvisare, oh mamma mia, che cosa faccio? Da 2 anni a questa parte è una cosa a cui non riesco assolutamente a prescindere, o a rescindere, o a non riuscire ad avere, prescindere. Con i modulari, dici? Con i modulari, sì, o in generale comunque con la musica. Beh, a volte no. È divertente mettersi a, insomma, dire non preparo un qualcosa per forza, ma lo suono, mi diverto, vedo cosa succede. Vedo che cosa succede, sì. Ascolto quello che succede, per uno dei nostri discorsi preferiti. Assolutamente. Assolutamente sì. Tra l'altro stavo vedendo prima nella tua libreria che hai preso il libro nuovo della Oliveiros. Non ho ancora avuto modo di leggerlo. Non ero curioso di capire come fosse. Perché gli altri 2 libri sono stati quasi dei capisaldi mangiati, commentati, diffusi. Una volta forse eravamo anche in una trasmissione che avevamo fatto, la prima che avevamo fatto di radio, avevamo letto dei paragrafi riferiti sempre all'ascolto, a quello che doveva essere. Si sì, ha mangiato i nostri libri. Perché c'era la pasta. No. Un po' più di questa, direi. Sì, un po' famiglia. È strano però farla così, eh? Sì. Però adesso ha rotto tutta la pasta. Non abbiamo trovato nessuno che ci intervistasse, quindi stiamo facendo questa cosa così. Pazzarella. Un po' non usuale, o almeno così potrebbe sembrare. Ma tra l'altro, dimmi. Visto che parliamo di tanto d'ascolto, forse non so, specificamente chiesto per te. Non sentiamo l'odore di bruciata, ma ascoltiamo molto bene. Per te, nello specifico, che cosa ascolti? Oh, mamma mia, che domanda. Mi da piangere. No. Che cos'è per me l'ascolto? Un'esigenza. Perché senza la capacità di potersi ascoltare in primis non si riesce ad ascoltare quello che capita intorno. Se uno ha tanto chiasso dentro, non è predisposto ad avere un ascolto pulito. E quindi sì, da avere un giusto equilibrio su quello che si sente, su quello che ti va a sviluppare, poi quell'ascolto. Però quale principalmente ascolto? No, vabbè, se si sente, però principalmente quello interiore. Non è una cosa fisica, è più una cosa emotiva l'ascolto, secondo me. Okay. Infatti, una cosa che dicevo sempre, che la musica è un mezzo a sviluppare quell'ascolto interiore. Se no, altrimenti non ce l'hai. E Francesca invece, per te, mi guardi con gli occhi strabuzzanti. L'ascolto? Che è un bel bagaglio. No, per me l'ascolto è un mezzo importantissimo di dialogo. Cioè, per me non esiste ascolto senza dialogo e dialogo senza ascolto. L'ascolto è percepire l'altro, percepire sé. Riuscire ad accogliere con l'ascolto, sì. Cioè, che poi alla fine la cosa che facciamo noi quando suoniamo, non ci stiamo parlando in quel momento, oppure probabilmente ci diciamo molte più cose rispetto a quelle che ci diciamo a parole, no? Beh sì, è un linguaggio anche quello. È un linguaggio, sì, è un linguaggio, in entrata e in uscita. Sì, quello che viene suonando è un linguaggio fatto di spazi, nel senso che ognuno cerca di crearsi e di creare lo spazio per se stesso e per l'altro, che è poi il giusto ascolto, probabilmente, perché se lo rapporti anche nei rapporti umani, con un giusto ascolto sai dare i giusti spazi, probabilmente. Sì, però forse nel mondo sonoro è l'ascolto del non detto, che forse poi se uno riuscisse a portarlo nel mondo della parola, penso sia molto più importante riuscire a capire ciò che le persone non dicono, più che quello che le persone dicono. Non so se ha senso. Sì, abbastanza. Non riesco a figurarlo purtroppo nell'essere umano un linguaggio del genere. Però sì, assolutamente sì, se si riuscisse a capire dai silenzi altrui quello che quel silenzio vuol significare. Molti musicisti, forse era Jimi Hendrix che diceva la parte più importante della musica è la pausa, è il silenzio. Quindi, perché Casey mi ha fatto... un brano intero. Mi ha fatto una carriera, sì. Però sì, se riuscisse a saper ascoltare bene, bene, bene il silenzio altrui, perché il silenzio è molto più ricco di comunicati e di comunicazione rispetto a quello che... No, come dicevi tu prima, no? Che hai menzionato la parte emotiva, che l'ascolto è ascoltare proprio io e le proprie emozioni. Lì, tutto lì. Nella comunicazione c'è tanto di non detto. Spesso. Molto volentieri. Molto spesso e molto volentieri, sì, c'è la parte di non detto, di non comunicato, della non, del celato, del tenuto nascosto. E lì però come fai a capirlo poi? Ascolti. Che cosa? I silenzi? Le espressioni, le movenze, gli occhi. Ovviamente se ci fosse un po' più di sincerità in generale, o anche di accettazione, non ci sarebbe bisogno di affinare così tanto un ascolto. Accettazione, forse accettazione anche di sé. Ah, no, perché spesso è quello è che non diciamo noi, più di quello che capiscono magari gli altri. L'accettazione è principalmente l'accettazione del sé. Già se, come ti dicevo prima, se riesci già ad ascoltarti e quindi a capirti, se ti ascolti un po' capisci anche le castronerie, le baggianate che vai a sparare ogni tre minuti. Se ti ascolti magari riesci ad accettarti, se ti accetti già una parte di accettazione, incominci a capire meglio e sei più libero, uno perché non sei più così concentrato sulla tua persona, ma sei più disponibile ad essere empatico e quindi ad accogliere anche le emozioni altrui. Però sei anche concentrato su quello che senti tu e quindi sei più sincero. Assolutamente, sì, ti conosci meglio. Sì, sì. Conosci meglio e conosci certi anche, soprattutto di tuoi meccanismi che comunque l'essere umano poi mette in atto e in funzione come autodifesa, come sì, principalmente la vedo come autodifesa, ma anche autoattacco, però alla fine l'attacco è un modo per difendersi. Quindi metti in modo, se tu riesci, come dicevamo prima, ad ascoltarti fino in fondo, magari riesci a capire anche questi meccanismi, a capirli, non a bloccarli, perché magari a volte non è che devono essere per forza bloccati, criticati o visti male, però riesci a capirli, riesci ad accettarli, riesci a voler bene anche ai tuoi difetti a volte, e dire sai che c'è, magari sono simpatico e carino anche per me quello. E se riesci ad ascoltarti in questa maniera, sei più comodo e predisposto a un ascolto esterno. Sì, sì, sei più aperto. Come se riesci ad affinare l'ascolto, diventi anche più accogliente. È un modo di comunicare a due vie. In università ne parlate? Di questo genere di ascolto o no? Purtroppo no. Comunque potrebbe essere un argomento anche interessante, perché Francesca, ne abbiamo parlato anche tante volte in trasmissione, sta facendo il biennio, giusto? Sì, di musicoterapia. E quindi musica come ascolto, anche l'ascolto è una forma di terapia. Assolutamente. In terapia d'altronde vai e parli, quell'altro non ti risponde e l'unica cosa che fai è autoascoltarti, quindi la cosa è quella. Non pensavo che magari fosse venuto fuori da qualche... No, però lungimirante professore potrebbe essere un bel tema da portare sicuramente. Meno male che domani suoniamo e non facciamo un monologo e non parliamo più non diremo nulla neanche quando sarà un'ora di monologo di introspezione per voi, per noi, per tutti magari anche meno. Poi vediamo, poi guarderemo, cercheremo di scrutare nei vostri occhi la sofferenza e decideremo di smettere oppure di andare avanti ancora un po'. Però cercheremo di fare il possibile affinché la serata sia più piacevole possibile. E domani, promesso, io non parlo. Io non dico, uno perché sarò emozionato, un po' forse piangerò perché comunque... è la fine di un capitoletto che comunque io mi sono legato, come stavano dicendo prima, mi sono legato molto. Ma tornerà, prima o poi tornerà. Si pensava ogni 4 anni. Esatto, può essere che la rassegna atmosferica sarà come le Olimpiadi. Ogni 4 anni torna. Sempre più grossa, sempre più sempre più sbattiente. Però magari sì, in 4 anni si pensa, magari ne facciamo due. Poi vabbè, vedremo. Per adesso finisce. Per adesso è stato un viaggio meraviglioso. Ringraziamo tutte le persone, tutti i musicisti, in primis. Io ringrazio te Giacomo per essere stato un grande compagno. Ringraziamo Exalge, Box of Tangerine, tutti voi che siete venuti a sentire i concerti, chiunque verrà domani. Anticipiamo il ringraziamento. Sì, così ce l'evitiamo domani. Basta, sì. Lasciamo magari andare quest'ultimo brano, così a chiusura di tutto quanto. E possiamo avvicinare. Un abbraccio ancora, grazie a tutti Franci, ti voglio un bene incredibile, grazie davvero per questa avventura splendida. Grazie. A domani. A domani a tutti. Ciao. Ciao amici.